Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17, 7 minuti e 40 secondi. Buonasera, gentili ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Ed è un'altra puntata nella quale ci toccherà parlare ampiamente di quel che succede sui mercati. Borsa Italiana ha comunicato, ve lo dicevamo poco fa nel giornale radio, che ci potrebbero essere problemi per quanto riguarda l'aggiornamento dell'indice FTSE MIB. Fatto sta che il valore che abbiamo adesso è di un calo del 3,23% e comunque sia il FTSE All Share perde il 3,08%. Male va tutta l'Europa, Francoforte cede 3 punti percentuali, Parigi il 2,47% e l'America ci mette il suo perché il Dow Jones lascia sul terreno l'1,92% in questo momento, lo Standard & Poor's 500 il 2,21% e il Nasdaq il 2,5%. Ancora vendite sulle banche, come vi dicevamo poco fa, Intesa San Paolo che perde il 6,5%, Unicredit il 7%. E anche su Fiat che cede il 10,03%, mentre Fiat Industrial perde il 7,5%. In una giornata che è stata molto intensa proprio da questo lato, e quindi il tema dei mercati in realtà avvolge tutta questa giornata economica, perché avvolge anche la conferenza stampa del presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, che ha toccato questi temi, e i temi, come dicevamo nel GR, degli acquisti di titoli di Stato dei paesi cosiddetti periferici e naturalmente gli incontri che ci sono stati oggi, quelli tra governo e parti sociali e quello tra le stesse parti sociali e l'opposizione, per fare il punto sulla situazione proprio sulla scorta di quel che succede sul mercato. È di tutto questo che parleremo naturalmente in questa puntata di Focus Economia, quasi quindi interamente dedicata a queste vicende. Iniziamo dalle notizie in breve. Allora, iniziamo come sempre dalle materie prime e dal petrolio. Il WTI è sceso sotto i 90 dollari al barile, ha perso il 2,15% rispetto alla chiusura di ieri a 89,98 dollari. Per quanto riguarda l'oro, come al solito e anche oggi ci becchiamo un altro record. A New York è uscito adesso a 1679 dollari l'oncia. Dati dall'America riguardano i sussidi di disoccupazione. Negli Stati Uniti la settimana scorsa sono diminuiti di 1000 unità a 400.000 unità le richieste di sussidio di disoccupazione. Gli economisti avevano stimato un incremento a 405.000, ma come avete visto questo dato, questo rialzo, seppur modesto, non ha avuto alcun impatto sulla borsa americana, anzi. E la Germania invece continua a correre. In giugno gli ordini all'industria hanno avuto un altro balzo, a sorpresa tra l'altro, un balzo dell'1,8% dopo il più 1,5% di maggio. Gli analisti si attendevano una flessione dello 0,5%. In un anno gli ordinativi hanno registrato una crescita del 9,5%, la domanda dall'estero è aumentata del 13,7%. C'è tutta la questione della Banca Centrale Europea e della conferenza stampa di oggi, poi. Allora, i tassi di interesse sono rimasti fermi come ci si attendeva, siamo all'1,5%, il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, dice che l'incertezza resta particolarmente alta e che i rischi per l'Europa 27 potrebbero intensificarsi. chiede Trichet che il fondo salva stati funzioni quanto prima e poi annuncia liquidità supplementare contro le tensioni, dice che non c'è stato alcuno stop agli acquisti di bond, di obbligazioni di Stato dei paesi periferici e anzi, dice, sono già partiti. I'm telling you that we are fully transparent. You will see what happens. I would not be surprised if before the end of this teleconference you would see something on the market. Insomma, dice Trichet, non sarei sorpreso se alla fine di questa conferenza stampa si vedesse qualcosa a proposito degli acquisti di titoli di Stato. Sul mercato stanno circolando varie voci, vedremo di capire quanto poi sono verificate e quanto ci sia di italiano in questi acquisti. A quanto pare, da quel che è circolato finora, nulla, ma vedremo. E ancora Trichet dice l'Italia anticipi il risanamento dei conti, non si riferisce specificatamente all'Italia, gli è stata fatta una domanda su questo e ha detto l'Italia come gli altri paesi deve anticipare il risanamento dei conti. Nel frattempo da Bruxelles la Commissione Europea si dice fiduciosa che la situazione in Italia si stabilizzerà dal momento che il governo ha preso decisioni su riforme importanti. In una giornata nella quale hanno ballato parecchio ancora una volta gli spread, ossia le differenze di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, questa mattina siamo arrivati a ridosso a quota 350 circa, la quota è scesa, lo spread è sceso a 354 punti dopo le parole di Trichet e poi siamo arrivati di nuovo invece a ridosso quota 390 poco fa. Ed è proprio da qua che iniziamo e da qua che proseguiremo in realtà questa puntata di Focus Economia, sulle tensioni sui mercati, la reazione dell'Italia, del governo, la reazione dell'Europa e della BCE. E perdonerete se oggi non ci sarà grande separazione tra i temi di questa puntata di Focus Economia, che va in onda come per tutto agosto solo per un'ora, andremo in onda fino alle 18 proprio perché tutto si mescola. Ieri il discorso del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi alla Camera, che aveva esattamente l'obiettivo di placare i mercati, oggi l'incontro con le parti sociali per definire una nuova agenda che riguardi la crescita, che riguardi ovviamente i conti pubblici. E in questa giornata però abbiamo assistito e stiamo assistendo a quel che vi abbiamo raccontato sui mercati. Ancora una volta si è partiti molto bene o abbastanza bene con quello che ci si attendeva, un rimbalzo dopo una serie di sedute negative e poi ci avviamo ad una chiusura veramente pessima. Saluto Walter Riolfi del Sole 24 Ore. Walter, buonasera. Buonasera a tutti. E saluto il professor Andrea Rangone, economista del Politecnico di Milano. Buonasera, professor Rangone. No, mi dicono che non c'è ancora. Allora, io inizierei proprio con Walter Riolfi, poi vedremo al tema appunto degli incontri tra il governo e le parti sociali. E Walter, una pura domanda su quello che dicevamo poco fa, ossia come si è mossa la Banca Centrale Europea oggi. Da quello che sei riuscito a capire, ci sono stati interventi sui titoli italiani oppure no? No. Nessun intervento sui titoli italiani. Però quello che abbiamo visto oggi, la conferenza stampa di Trichet, è il capolavoro, il trionfo della tergiversazione, dell'inutilità, dell'incapacità delle autorità monetarie di prendere una decisione. Quello che abbiamo visto tra ieri sera, dal discorso di Berlusconi a quello di Trichet, proprio è l'incapacità delle autorità monetarie o politiche di affrontare la situazione. Non si capisce bene il motivo, ma quello che il discorso di Berlusconi aveva deluso i mercati, che si aspettavano l'anticipo di una manovra economica non del 2013 ma 2011 già o massimo 2012, il discorso di Trichet è stato qualcosa di paradossale, addirittura, no? La dichiarazione, vedrete, non sarei sorpreso che alla fine della mia conferenza, e sono le 3 del pomeriggio quando lo sta dicendo, vedrete qualcosa, succederà qualcosa sui mercati. E in effetti qualche secondo dopo succede qualcosa, il rendimento del titolo di Stato italiano, che era al 6,20%, arriva giù al 6%, cade, no? Allora tutti dicono, mamma mia, sta comprando i titoli italiani, non capisce niente. No, no, non era quello il problema, succede semplicemente che loro si aspettano qualcosa, gli operatori, e anticipano una mossa. Il problema è che non è successo proprio niente, anzi si capisce che lui compra i titoli, semplicemente i titoli portoghesi e irlandesi. Nemmeno gli spagnoli, perché era circolato, no, anche questo. Nemmeno gli spagnoli, no? E anzi, questo programma di riacquisto titoli è un programma che già giaceva all'interno della BCE, era un programma che era lì dormiente e viene semplicemente riattivato. E questo programma di acquisto titoli sembra che nemmeno abbia avuto il consenso unanime di tutti i rappresentanti. Sì, se non erro, no? L'espressione usata da Trichet è stata schiacciante maggioranza. No, sì, non schiacciante maggioranza. Comunque vuol dire, comunque vuol dire non unanime. Che sicuramente, no, qualche esponente tedesco si è opposto, no? E quindi la reazione successiva, quando i mercati si sono accorti che le parole di Trichet erano vuote, la reazione successiva è stata ancora peggiore. Fatto sta che per esempio il rendimento del nostro BTP decennale, che era sceso al 6%, adesso si trova al 6,23%, è schizzato al massimo storico. Lo spread sul Bund è a 392-393, massimo storico. Si è praticamente annullato il differenziale tra il nostro BTP e quello spagnolo, un po' più 1, 2, 3, 4 centesimi, e niente. E la borsa di Milano è tornata a perdere, è quella che perde più di tutti, oltre il 3%, e perdono oltre 1,5% anche le altre borse europee. Quindi è stata proprio la delusione più completa. Tu dici il capolavoro in negativo della Banca Centrale Europea, certo, in questo caso, da questo punto di vista. Allora, ci è raggiunto il professor Andrea Rangone, economista del Politecnico di Milano. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Allora, lei condivide? Purtroppo sì. Purtroppo sì, un'altra dimostrazione di grande debolezza, debolezza politica, ma anche direi debolezza di comunicazione, no? Perché è vero, insomma, le comunicazioni che sono state fatte sono veramente, veramente di basso livello, e non dimentichiamoci che sui mercati finanziari, in particolare in epoche speculative, la comunicazione ha la sua importanza, ecco, non sono solo parole, no? Ecco, possono determinare, certo, anche i fatti, soprattutto in un contesto come questo, in cui chiaramente l'Europa in questo momento è attaccata da un fortissimo, no, flusso speculativo, che sta cercando di giocare, dal mio punto di vista, una chiara partita nel trasferire ingenti flussi di investimento dai titoli di Stato dei paesi europei a quelli degli Stati Uniti, no? Questo è ho la sensazione sia un modo di leggere i fenomeni speculativi, ecco, in questo momento. Ecco, vorrei fare questa domanda a lei e poi la girerò anche a Walter Riolfi, proprio su questo tema della Banca Centrale Europea. Al di là della comunicazione, se la BCE fosse intervenuta acquistando titoli italiani, non sarebbe stato un ulteriore segnale negativo, un segnale di sfiducia forte, professore? Ma dipende da come, in realtà, al di là dell'azione specifica, da quello che c'è dietro, no? Cioè, perché l'azione può essere letta in questo modo, oppure all'opposto può essere letta come dimostrazione di una capacità, di una forza, in realtà, di intervenire realmente, e con una chiara strategia, con una chiara capacità di farlo a difesa di un paese in difficoltà. Quindi come tutte le cose possono essere lette sulla base, evidentemente, di quello che c'è dietro. Probabilmente in questo caso, vista la debolezza strutturale effettivamente della Banca Europea, è vero, no? una lettura in senso negativo poteva essere presa dai mercati. Qui bisogna cambiare, in realtà, purtroppo, le regole del gioco con cui la banca può intervenire, ma questo è un processo che non si fa immediatamente. Naturalmente. Allora, io intanto vi comunico che, dato comunicato di borsa italiana diffuso adesso all'agenzia di stampa Radio Corre, il Sole 24 Ore, l'indice FTSE MIB non viene diffuso, ci sono stati problemi tecnici, ci mancavano pure questi. Comunque prendiamo a riferimento il FTSE All Share, il calo è del 3,08%, l'ultimo dato del FTSE MIB che abbiamo è un calo del 3,23%, insomma diamo per buono, si fa per dire naturalmente, un calo di circa il 3%. Walter Riolfi, su questo tema, sul rischio che comunque un intervento di un qualche tipo della Banca Centrale Europea sui titoli di Stato italiani potesse ampliare ancora di più il clima di sfiducia. Ma non so, qui siamo nella situazione di prendere provvedimenti di emergenza. Questa qui è una situazione che si autoavvita. In Italia i rendimenti sono già al 6,20%, se si arriva al 7% si dovrà oltre alla Grecia, al Portogallo, l'Irlanda, bisognerà pensare di salvare l'Italia, la Spagna, eccetera, non ci sono le risorse sufficienti. Qui le autorità politiche o monetarie devono dare una risposta che interrompa questa spirale. Il problema è che questa spirale non è fatta di pochi speculatori, è fatta da investitori che a questo punto, no, davanti alla prospettiva di un default che si autoalimenta, perché se i tassi continuano a salire il rischio è quello, questi qui stanno liberando i loro portafogli da tutti i titoli italiani. Quindi quando finirà non lo so, può darsi che non siamo nemmeno verso la fine di questo processo. Quindi, esattamente come ha fatto Deutsche Bank la settimana scorsa, che non è esattamente uno speculatore. Certo, insomma, forse non li ha venduti ma ha immunizzato attraverso strumenti di difesa che poi equivale a delle vendite in effetti sul mercato. Quindi qui ci vuole una risposta urgente e quindi ce la si aspettava ieri da Berlusconi per quanto riguarda la manovra, che tra l'altro Tremonti quest'oggi ha fatto anche intuire che si può fare qualcosa di più. Ce l'aspettavamo da Trichet ed è stata la delusione più completa. Questo è il quadro per quanto riguarda la questione che riguarda la Banca Centrale Europea. Allora, io adesso poi Walter Riolfi ti riporterò invece più sullo specifico sui temi, continuano a chiedercelo gli ascoltatori, in parte lo abbiamo già detto, continuano a dirci ma insomma questa è una speculazione, intravedendo quasi una sorta di complotto ordito dalle grandi entità finanziarie internazionali nei confronti dell'Italia. Torneremo su questo tema. Io verrei nel frattempo però alla politica, perché come vi dicevamo i due argomenti sono strettamente collegati, soprattutto in queste giornate, e alle parole di oggi del Presidente del Consiglio dopo il discorso ieri alla Camera. E al Senato c'è stato l'incontro con le parti sociali, a seguire una conferenza stampa, e sentiamo dunque le parole di Berlusconi sulla crisi. Io non credo che la crisi si aggraverà e non dobbiamo così essere spaventati dal fatto che per esempio possono mantenersi gli spread attuali, perché comunque sarebbero riferiti a delle particelle di debito pubblico. Il globale del debito pubblico rimane agli interessi a cui è stato piazzato negli anni passati. Quindi l'aumento degli interessi afferirebbe soltanto a delle frazioni che comporterebbero un incremento dei nostri costi molto relativo rispetto alla totalità degli stessi costi. Così Silvio Berlusconi. Nel frattempo si apprende che oltre al fatto che lo spread, come ci diceva già Walter Riolfi, tra BTP e Bund ha superato i 390 punti, quello della Francia ha sfondato quota 86,6. Naturalmente insomma, c'è evidentemente un abisso, lo dicono anche i numeri, però stanno salendo i rendimenti anche delle obbligazioni francesi. E come anche ci diceva Walter Riolfi, era un la metteva come una probabilità, è stato sostanzialmente confermato, a quanto pare quello della Bundesbank, che ha detto no all'acquisto di titoli di Stato di paesi periferici, come era prevedibile naturalmente i tedeschi. Cosa ha detto ancora il Presidente del Consiglio? Il paese sta meglio di quanto dicono i media, i mercati reagiscono per ragioni proprie, sono come un orologio rotto. I mercati agiscono per ragioni proprie che sono distanti sia dalla realtà economica che dalla politica. E questo io lo so, sono figlio di un padre che aveva una grande esperienza di borsa, mi diceva della filosofia e delle ragioni che muovono le borse, che sono normalmente in contrasto con quelle che muovono l'economia. Mi ricordo una frase che diceva: le borse sono come un orologio rotto, due volte al giorno danno l'ora esatta, ma per tutto il resto l'ora non è quella vera. E io credo che questo tutti lo dovrebbero sapere. Per cui l'invito, il mio discorso di ieri era rivolto non alle borse, ma era rivolto ai cittadini, agli italiani, dicendo: non fatevi spaventare da questo. Ha parlato anche il ministro dell'economia, Giulio Tremonti, dice gli spread non seguono i fondamentali dell'economia, in realtà si riferiva non solo all'Italia ma a tutta Europa, il 45% del PIL europeo ha spread che non rispondono a fondamentali economici, ha detto Tremonti. E ancora, abbiamo fattori positivi e fattori di ostacolo, dobbiamo rilanciare i fattori positivi e rimuovere gli ostacoli, il pareggio di bilancio è fondamentale. E poi c'è stato un botta e risposta sul ruolo della Banca Centrale Europea, che molti hanno, tra Berlusconi e Tremonti, che molti hanno interpretato come l'ennesimo segnale dello scontro in atto tra il Ministro dell'Economia e il Presidente del Consiglio. Abbiamo deciso, abbiamo presentato oggi un metodo di lavoro che è non solo Italia su Italia ma anche estero. Abbiamo già nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, avviato contatti con le principali istituzioni economiche, finanziarie e internazionali per un programma di discussione e di proposte congiunte e comuni, Commissione europea, OCSE e Fondo monetario. A partire da questo agosto noi saremo attivi anche su questo segmento. Non solo, ripeto, Italia su Italia, ma aprendoci al confronto con queste istituzioni internazionali. Anche, anche la BCE è importante. Credo che sia molto importante, ma non coinvolgibile in questo tipo di... Informabile, però sì. Delle banche centrali, mi limito a notare che la Banca del Giappone ha avviato oggi il quantitative easing, che la Banca Centrale Svizzera ha azzerato il saggio di interesse. Siamo in attesa di decisioni, se possibili, ma auspicabili. Vedete, ma chiudo, quando voi parlate con l'Asia vi dicono: non capiamo cos'è l'Europa. Secondo punto, dice: ma se voi, la vostra banca centrale, non comprate i vostri titoli, perché li dovremmo comprare noi? Professor Andrea Rangone, economista del Politecnico di Milano, ancora con noi. La parola magica l'ha detta Tremonti: quantitative easing, l'alleggerimento quantitativo, insomma un modo del quale dispongono le banche centrali immettere liquidità, insomma aiutare i mercati. Perché la BCE non lo può fare? Perché lo fa il Giappone? Lo fa l'America e la BCE non lo fa? Il professor Rangone è caduto. Giro la domanda a te, Walter. Oltre al Giappone e agli Stati Uniti c'è anche la Svizzera, che ha proposto una sorta di quantitative easing, di espansione monetaria, no? E io mi chiedo perché non lo può fare. Non lo può fare perché probabilmente non è nel mandato, però anche questo non è chiaro dalla BCE. Trichet, quando ha detto compreremo bond quest'oggi, Qualcuno deve avergli chiesto: ma allora facciamo una sorta di quantitative easing? No, noi non facciamo quantitative easing, dice. In realtà non stanno comprando solamente alcuni bond, perché dall'inizio del programma mi pare che abbiano comprato per, adesso non vorrei, cito, 50 miliardi da 7-8 mesi a questa parte. Sì, le cifre non ce le abbiamo sotto mano. Ho letto poco fa una cifra del genere, 50 miliardi. La BCE, la Fed ha comprato per 600 miliardi di dollari nell'ultimo quantitative easing e ne aveva spesi ancora ben più, quasi il doppio in quello precedente. E quindi vedremo se riusciremo a recuperare il professor Rangone e a farci dare una risposta su questo tema. Veniamo alle altre voci di questa giornata. Come si diceva, una giornata molto intensa. C'è stato l'incontro tra il governo e le parti sociali, poi c'è stato l'incontro delle parti sociali con l'opposizione. Vediamo di andare con ordine, tra poco sentiremo le voci di Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, della leader della CGIL, del presidente dell'ABI. Iniziamo per dover di cronaca, visto che abbiamo appena sentito il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia, dall'opposizione e dal leader del Partito Democratico Pierluigi Bersani. Una comune valutazione della drammaticità del momento, che ci pare ancora una volta il governo sottovaluti in un modo irresponsabile. Per quel che riguarda noi, abbiamo detto quel che pensiamo si debba fare: pubblica amministrazione, fisco, liberalizzazioni, politiche industriali, una correzione di questa manovra, ma abbiamo aggiunto che tutte queste cose richiedono un po' di tempo e noi pensiamo che il segnale vero di una possibile nuova fiducia dell'opinione mondiale, italiana e dei mercati possa venire solo da un gesto politico, da una svolta politica. Detto questo, noi abbiamo ribadito l'assoluta disponibilità a essere qui in agosto, se il governo decidesse di fare qualcosa di utile, confrontandosi anche con le nostre proposte, e abbiamo detto chiaro che noi siamo pronti ad abbassare qualcosa della nostra bandiera in nome del tricolore, perché qui c'è un problema nazionale. Così Pierluigi Bersani, leader del Partito Democratico. Sentiamo adesso le parti sociali, mentre il leader, un altro pezzo dell'opposizione, il leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini, dice: fermiamo la litania delle dimissioni del governo, piuttosto, in sostanza, il senso è: lavoriamo insieme. E ora le parole di Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria. Noi abbiamo, come dire, detto anche all'opposizione qual è la nostra posizione, cioè, quindi abbiamo ribadito con forza il senso dell'urgenza, dell'emergenza, la forte preoccupazione. Abbiamo illustrato i 6 punti che già conoscete, che avevamo già illustrato al governo. Per quanto ci riguarda, noi andremo avanti a lavorare, ci siamo già riconvocati per la prossima settimana come parti sociali, quindi è nostra intenzione continuare a incalzare, certamente prima il governo, ma abbiamo chiesto anche all'opposizione di evidenziare, di capire bene, e ci è sembrato di avere una risposta in questo senso, il senso dell'urgenza di questo momento. Quindi da parte nostra noi avvieremo subito il tavolo tra di noi sulla modernizzazione delle relazioni sindacali, ci siamo riconvocati la prossima settimana per rendere le nostre proposte ancora più concrete, quindi da parte nostra noi continueremo a incalzare sul tema dell'emergenza, dell'urgenza che questo Paese deve portare avanti. Da una parte l'equilibrio di bilancio, avete visto anche la posizione di Trichet. Trichet ha detto che l'Italia, come altri paesi, deve rendere la manovra più stabile e anticiparla. Quindi da una parte l'equilibrio di bilancio e dall'altra però anche la crescita. Quindi tutto quello che abbiamo chiesto, investimenti da far partire, liberalizzazioni, privatizzazioni, diciamo semplificazioni, per noi sono elementi fondamentali che vanno tutti portati avanti. E il tema vero è l'urgenza, cioè la parola chiave è l'urgenza. Cioè noi vogliamo che si prendano decisioni subito e si vada nella direzione appunto di lavorare proprio in questi giorni, perché sentiamo molto forte il tema dell'urgenza e la preoccupazione di questo momento. Ultime due notizie dal lato dei mercati, e speriamo che veramente siano le ultime, che a quanto pare i CDS, i credit default swaps, questa sorta di assicurazioni, questi prodotti che di fatto sono un'assicurazione dal rischio default di un paese, quindi come in tutte le assicurazioni più costa il premio, diciamo più alto il rischio più costa il premio, per l'Italia sono arrivati a sfiorare i 400 punti. Altra notizia, quella spagnola, il tesoro ha appena annullato l'asta dei bonus del 18 agosto. E con queste notizie di mercato saluto Walter Riolfi del Sole 24 Ore. Grazie Walter per essere stato con noi e buonasera. Grazie a voi, buonasera. E noi continuiamo ad ascoltare le voci di questa giornata, sentendo anche le altre parti sociali. La leader della CGIL, Susanna Camusso, sul tema dell'urgenza. C'è un'urgenza di risposte che non ci pare stia per il momento nella comprensione del governo. L'opinione che ne ho ricavato è che per il governo ci sia la difesa di ciò che ha fatto e non la convinzione dell'urgenza e della difficoltà che il paese ha. Leader della CISL, Raffaele Bonanni, commentando il tema dell'unità tra le parti sociali su questi temi, sui temi della crescita. Spero che anche la politica sia attraversata dallo stesso processo di unificazione. L'urgenza che richiede la situazione, la determinazione che suggerisce la storia che stiamo vivendo, l'esigenza di rassicurare i cittadini ha bisogno di una unità molto molto molto forte. Ecco perché riteniamo che il governo debba fare molto presto e le opposizioni debbano pronunciarsi con molta forza a sostegno delle opinioni che loro stesse hanno detto condividono, quelle rassegnate da noi. Quindi è importante che ci sia in queste ore un processo di unificazione degli sforzi. Questo è molto importante. Noi siamo davvero molto preoccupati per quello che sta accadendo. Nel frattempo continua a parlare il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, in un'intervista all'Ansa dice assolutamente essenziale che ci siano riforme strutturali in Italia, una maggiore flessibilità del mercato del lavoro. E dice, chiede che il vertice con le parti sociali rilanci la competitività, e ancora è un bene qualsiasi anticipazione delle riforme fiscali, qualsiasi azione preventiva è adeguata nell'attuale situazione. Altre indicazioni da Trichet: quello che serve all'Italia è certamente ridurre la spesa pubblica e raggiungere i suoi obiettivi di deficit. Noi proseguiamo ad ascoltare queste voci a partire, o meglio, per concludere, con quella di Giuseppe Mussari, presidente dell'ABI, e tutte queste voci, quelle voci che avete ascoltato, erano al microfono del nostro Vincenzo Miglietta, così come quella di Mussari. Mi pare che ci sia una novità storica, si può dire, forse troppo, però secondo me è storica, cioè che tutte le forze sociali sono unite intorno a un documento, sia per chi dà lavoro, sia chi organizza i lavoratori, e questo dà il senso dell'urgenza e dell'importanza del momento. Questo senso e quest'urgenza è bene che sia colto appieno da governo e opposizione. Perché di concreto poi si è visto poco oggi, mi sembra. Beh, oggi non è, l'importante è che sia colta fino in fondo l'urgenza e che non ci possono essere soluzioni di continuità, si chiami agosto il mese o si chiami novembre. La questione dei tempi, dice, ha riferito il ministro Romani, che nei primi giorni di settembre appunto ci saranno provvedimenti sui singoli argomenti e che comunque sia il confronto con le parti sociali continuerà anche durante agosto, e quindi probabilmente le ferie saranno assai limitate, come ha confermato anche la presidente degli industriali Emma Marcegaglia. Le parti sociali restano al lavoro, ci siamo già riconvocati per un incontro la prossima prossima settimana e quanto la disponibilità del governo a fare altrettanto risponde. Vediamo quali saranno i prossimi passi. In questa fase contano solo i fatti concreti. Noi ci aspettiamo convocazioni e incontri nelle prossime settimane. Tutto questo per un'agenda che oggi il governo ha presentato alle parti sociali e che, dice la Presidente degli Industriali, riprende la nostra agenda. 8 punti, pareggio di bilancio e libertà economica in Costituzione, riforma assistenziale e fiscale e contrasto all'evasione, modernizzazione delle relazioni industriali e del mercato del lavoro, finanze e reti d'impresa, accelerazione opere pubbliche, reti energetiche e delle nuove reti di telecomunicazione, privatizzazione anche di servizi pubblici locali e liberalizzazioni, il tema dei costi della politica, la diffusione delle nuove tecnologie, fondi strutturali europei e mezzogiorno. Molta carne al fuoco, vedremo poi appunto quando e come arriveranno i provvedimenti concreti. Noi abbiamo molto di concreto di cui parlare adesso, ossia i mercati. Concreto per modo di dire, perché non abbiamo ancora capito a quanto abbia chiuso l'indice FTSE MIB, perché ci sono stati dei problemi tecnici. Non è la prima volta, a dire la verità, per Borsa Italiana che ci sono problemi tecnici, se non sbaglio addirittura nel corso di quest'anno. Andrea Fontana, è così? Buonasera. Sì, è così, ci sono stati problemi, a quanto ci risulta. Tuttavia comunque i problemi hanno coinvolto anche altri indici di NYSE Euronext, quindi altri titoli, altri indici e altri mercati europei, quindi diciamo ragionare sulla reale dimensione della flessione di borsa oggi attualmente non è facile. Da quanto ci dicono, nel giro di un'ora può darsi che ci sia un'indicazione più precisa, diciamo, sia la chiusura del fronte degli indici sia anche dei singoli titoli. Per quanto riguarda Milano utilizziamo un indicatore che è il FIB, cioè il future sul FTSE MIB, che invece ha chiuso correttamente, ha perso oltre il 5%, quindi per dare una dimensione di quella che potrebbe essere la flessione di oggi. E quindi il 3% che vediamo indicato in giro è assolutamente, cioè non diciamo falsato, però insomma, potrebbe essere buono nei confronti dell'andamento di borsa di oggi. Nel frattempo le cose stanno visibilmente e potentemente peggiorando in America, dove il Dow Jones perde quasi 3 punti percentuali, il Nasdaq il 3,5% e lo Standard & Poor's il 3,34%. Non sappiamo se ci siano problemi tecnici anche qua. Io ti porterei per quanto possibile, Andrea, sui singoli titoli. Naturalmente, come al solito, i bancari, manco a dirlo, Intesa San Paolo è il peggiore, perde il 10,35%, Unicredit il 9,33%. Anche qua ci sono problemi da questo punto di vista? Ci sono stati problemi sui singoli titoli che Borsa Italiana abbia comunicato? Non ha fatto comunicazioni sui singoli titoli, però è molto probabile, da quello che stiamo cercando di verificare, che anche le indicazioni che stanno emergendo sulle aste di chiusura, quindi sul prezzo definitivo, non siano quelle diciamo aggiornate. Comunque c'è stato un ultimo aggiornamento alle 17:36, quindi un quarto d'ora fa, che dà le indicazioni che tu stavi segnalando, cioè Intesa e Fiat le peggiori hanno perso oltre il 10, Unicredit ha perso il 9, così come Fiat Industria, quindi prendiamole con beneficio inventario, direi. È un mercato oggettivamente, Andrea, che non guarda in faccia a nessuno. Unicredit ci segnalano anche, forse giustamente, al 349-238-6666, ieri ha presentato ottimi risultati, una semestrale con utili raddoppiati e oggi lascia giù il 9,3%. Sì, direi che ragionamenti sui fondamentali delle aziende in questo momento non prevalgono, anzi contano molto relativamente. Oggi qualche titolo magari ha un po' limitato le perdite proprio perché ha pubblicato i conti, ma chiaramente il ragionamento è sul rischio paese, sulla situazione del debito italiano, ed è strettamente legata a quello che è l'andamento della fiducia dei mercati nei confronti dell'Italia, ma anche delle altre piazze europee, che oggi non è che sono andate molto meglio, e soprattutto si guarda molto ai movimenti degli spread sui BTP, che oggi si sono spinti anche sopra quota 390 punti. Dicevi giustamente le altre borse europee. Parigi ha lasciato giù il 3,9%, Francoforte il 3,4%, Londra anche il 3,4%. Il quadro della giornata è più o meno questo. Come mai Fiat e Fiat Industrial 10,03% e meno 9,15% rispettivamente? Ma la dimensione è certamente qualcosa che sfugge al ragionamento sul singolo titolo. C'è da dire che, guardando ai settori, il settore auto e in generale un po' i settori ciclici oggi sono stati forse i più penalizzati in un andamento generale molto, molto duro. Cioè l'auto ha perso il 5,5%, gli industriali hanno perso il 4,7%, il settore costruzioni il 4,7%, questo è l'indice europeo. Che cosa abbia contribuito a far perdere Fiat quelle dimensioni è difficile dirlo. Sono valutazioni che non attengono al singolo titolo andamento della singola società, così come per Fiat Industrial abbiamo visto duramente penalizzate anche società che solitamente invece si destreggiano bene anche in queste situazioni, come Saipem o come altre industriali. Sì, Saipem giù dell'8,34%, il quinto titolo peggiore sul FTSE MIB. Se poi sarà confermato tutto questo naturalmente e sulla base di quel che dicevamo, però l'indicazione di massima comunque è di un calo piuttosto pesante. E anche Tenaris giù del 7%, qua ci sono anche questioni che più propriamente riguardano la società, no? Sì, certamente. Infatti Tenaris ha iniziato a essere penalizzata in maniera brusca, in maniera forte, anche quando i listini tenevano, cioè questa mattina fino all'inizio del pomeriggio. La performance di Tenaris era effettivamente sui fondamentali, perché la società ha comunicato un andamento della secondo trimestrale nettamente inferiore alle attese, in particolare i margini, la marginalità, l'EBITDA è stato molto inferiore rispetto a quello che ci si aspettava. Il mercato si aspettava 672 milioni, mentre il risultato trimestrale è stato di circa 100 milioni inferiore, quindi intorno a 570 milioni, e Tenaris ha tenuto questa brutta performance anche nel pomeriggio, effettivamente uno dei pochi titoli su cui si è ragionato sui fondamentali, come tu dicevi, Simone. Allora, tra i titoli che tengono, Andrea, tengono poi in una giornata come questa, per modo di dire, vediamo un Bulgari che comunque cede uno 0,41%, è il titolo migliore del FTSE MIB, sempre da quel che ci risulta, e Autogrill un meno 0,62%. Ci sono questioni particolari che riguardano questi titoli? Ma non ci sono questioni particolari. Va detto che effettivamente sul finale di seduta, insomma sulla seconda parte del pomeriggio, i titoli delle società più esposte verso il dollaro hanno abbastanza limitato le perdite. Il cambio euro-dollaro in zona 1,41, quindi un lieve rafforzamento del dollaro che ha favorito queste società, tant'è vero che appunto Bulgari, Autogrill, ma anche la stessa Lottomatica e Campari, così come Prismian, che sono le società che vediamo perdere di meno oggi, anche se insomma Prismian ha perso un 2%, sono tutte società molto attive sul mercato nordamericano, e questo le ha un po' favorite. Forse il discorso un pelo diverso per Campari, che ha pubblicato la semestrale e che quindi è riuscita un po' a limitare i danni grazie alla semestrale. Sì, tra l'altro appunto Autogrill, come dicevi giustamente, che ha molte attività americane, ha rinnovato proprio oggi negli Stati Uniti le concessioni per le attività di ristorazione negli scali di Phoenix e Southwest Florida. L'ultima cosa che ti devo chiedere riguarda brevissimamente gli assicurativi, che hanno fatto malissimo ma sono andati un po' meno peggio del resto del mercato. Sì, questa mattina mattina generale è stata in guadagno anche del 2% sulla scia dei conti della francese AXA, che è stata tra le migliori a Parigi. Oggi AXA ha pubblicato la semestrale con risultati veramente molto, molto positivi, ha quadruplicato l'utile netto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso a quasi 4 miliardi di euro, e questo aveva permesso inizialmente anche a Generali di beneficiarne, così come l'intero settore poi, assicurativo. Poi giù tutto comunque, Generali con un calo del 3,15%, il tempo e fondi aria sai del 3,82%, il tempo a nostra disposizione è finito. Un ringraziamento ad Andrea Fontana di Radio Cori Il Sole 24 Ore, a Mauro Del Corno in redazione, a Mauro De Angeli in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.